Lo Spirito Santo, il grande sconosciuto. Gli Atti degli Apostoli, narrando gli avvenimenti di quel giorno di Pentecoste, in cui lo Spirito Santo discese sotto forma di lingue di fuoco sui discepoli di Cristo, ci fanno assistere alla grande manifestazione della potenza di Dio, con cui la Chiesa iniziò il suo cammino in mezzo alle nazioni. La vittoria sulla morte e sul peccato, ottenuta da Cristo con la sua obbedienza, con la sua immolazione sulla croce e con la sua risurrezione, si rivelò quel giorno in tutto il suo divino splendore. I discepoli, che già erano testimoni della gloria del risorto, sperimentarono in sé la forza dello Spirito Santo. La loro intelligenza e il loro cuore si aprirono a una nuova luce. Avevano seguito Cristo e avevano accolto con fede i suoi insegnamenti, ma non sempre erano riusciti a penetrarne pienamente il senso. Era necessario che giungesse lo Spirito di verità a far loro comprendere tutte le cose. Sapevano che soltanto in Gesù potevano trovare parole di vita eterna ed erano disposti a seguirlo e a dare per lui la loro vita, ma erano deboli e quando era venuta l'ora della prova erano fuggiti e lo avevano lasciato solo. Nella Pentecoste però tutto questo è finito. Lo Spirito Santo, che è spirito di fortezza, li ha resi saldi, sicuri, audaci. La parola degli Apostoli risuona ora alta e vibrante per le strade e le piazze di Gerusalemme. Gli uomini e le donne che erano convenuti in quei giorni dalle più diverse regioni e affollavano la città, ascoltano pieni di meraviglia. Parti, Medi ed Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, abitanti della Frigia, della Panfilia e dell'Egitto, gente della Libia e della regione confinante con Cirene, gente venuta da Roma, sia giudei che proseliti, cretesi e arabi. Tutti noi sentiamo proclamare nelle nostre lingue le meraviglie di Dio. Questi prodigi, che si realizzano davanti ai loro occhi, li inducono ad ascoltare con attenzione la predicazione apostolica. Lo stesso Spirito Santo che agiva sui discepoli del Signore tocca anche il loro cuore e li porta alla fede. Narra San Luca che dopo il discorso in cui San Pietro aveva proclamato la risurrezione di Cristo, molti dei circostanti gli si accostarono domandando: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» L'Apostolo rispose: «Fate penitenza, e ognuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, perché siano rimessi i vostri peccati, e allora riceverete il dono dello Spirito Santo». E in quel giorno si unirono alla Chiesa, conclude il testo sacro, 3.000 persone circa. La discesa solenne dello Spirito il giorno di Pentecoste non fu un evento isolato. Quasi non c'è pagina degli Atti degli Apostoli in cui non si parli di lui e dell'azione con cui egli informa, dirige e vivifica la vita e le opere della comunità cristiana primitiva. È lui che ispira la predicazione di San Pietro, che conferma nella fede tutti i discepoli, che sigilla con la sua presenza la vocazione dei gentili e che manda Saulo e Barnaba in terre lontane per aprire strade nuove all'insegnamento di Gesù. La sua presenza e il suo intervento, insomma, presiedono ogni cosa. Attualità della Pentecoste. La realtà profonda che il testo della Sacra Scrittura ci fa conoscere non è un ricordo del passato, un'età dell'oro della Chiesa che si perde nella lontananza dei tempi. È invece al di sopra delle miserie e dei peccati di ciascuno di noi anche la realtà della Chiesa di oggi e della Chiesa di tutti i tempi. «Io pregherò il Padre», aveva annunciato il Signore ai Suoi discepoli, «ed Egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre». Gesù ha compiuto le Sue promesse, è risorto, è salito in cielo e in unità con l'Eterno Padre ci manda lo Spirito Santo per santificarci e darci la vita. La forza e il potere di Dio illuminano la faccia della terra. Lo Spirito Santo continua ad assistere la Chiesa di Cristo in modo che sia sempre e in ogni cosa un segno innalzato in mezzo a tutte le nazioni per annunciare all'umanità la benevolenza e l'amore di Dio. Per quanto grandi possano essere i nostri limiti, noi uomini possiamo guardare con fiducia al cielo e sentirci colmi di gioia. Dio ci ama e ci libera dai nostri peccati. La presenza e l'azione dello Spirito Santo nella Chiesa sono pegno e anticipo della felicità eterna, della gioia e della pace che Dio ha in serbo per noi. Anche noi, come quei primi che si avvicinarono a San Pietro il giorno di Pentecoste, siamo stati battezzati. Con il battesimo, Dio nostro Padre ha preso possesso della nostra vita, ci ha incorporati alla vita di Cristo e ci ha mandati lo Spirito Santo. Il Signore, dice la Scrittura, ci ha salvati mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo, effuso da Lui su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, perché giustificati dalla Sua grazia, diventassimo eredi, secondo la speranza, della vita eterna. L'esperienza della nostra debolezza e delle nostre cadute, lo scandalo che può produrre la vista penosa della pochezza o addirittura della meschinità di taluni che si chiamano cristiani, l'apparente insuccesso e lo sbandamento di talune iniziative apostoliche, tutte queste cose, che rappresentano una verifica della realtà del peccato e dei limiti umani, possono però mettere a dura prova la nostra fede, tanto che possono insinuarsi la tentazione e il dubbio. Dove sono la forza e il potere di Dio? È il momento di reagire, di esercitare in modo più puro e più energico la nostra speranza e quindi di rendere più solida la nostra fedeltà. Consentitemi di raccontare un episodio accadutomi parecchi anni or sono. Un amico di buon cuore, ma privo di fede, mi disse un giorno, indicando il mappamondo: «Guardi, dal nord al sud e da oriente a occidente». «Che cosa vuole che guardi?» gli chiesi. Ed egli: «Il fallimento di Cristo. Tanti secoli per cercare di introdurre la sua dottrina nella vita degli uomini, ed ecco il risultato». Sulle prime fui colto da una profonda tristezza, perché causa un gran dolore vedere che sono molti quelli che non conoscono ancora Cristo e molti, fra coloro che lo conoscono, quelli che vivono come se non lo conoscessero. Ma questa sensazione durò solo un attimo. Subito mi sentii pieno di amore e di riconoscenza, perché il Signore ha voluto fare di ogni uomo un libero cooperatore della sua opera di redenzione. Cristo non è fallito. La sua dottrina e la sua vita stanno fecondando il mondo incessantemente. La redenzione che egli ha effettuato è sufficiente e sovrabbondante. Dio non vuole degli schiavi, ma dei figli, e quindi rispetta la nostra libertà. La salvezza è ancora in atto e noi partecipiamo ad essa. La volontà di Cristo è che noi portiamo a compimento nella nostra carne, nella nostra vita, come dice con un'incisiva espressione San Paolo, ciò che manca alla sua passione. Pro corpore eius quod est ecclesia, per il bene del suo corpo, che è la Chiesa. Vale la pena di giocarsi la vita, di darsi del tutto per rispondere all'amore e alla fiducia che Dio ha riposto in noi. Vale la pena, in primo luogo, di decidersi a prendere sul serio la nostra fede cristiana. Quando recitiamo il Credo, noi professiamo di credere in Dio Padre Onnipotente, nel suo Figlio Gesù Cristo che morì e risuscitò, nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Proclamiamo che la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, è il corpo di Cristo, animato dallo Spirito Santo. Ci rallegriamo della remissione dei peccati e della speranza della futura risurrezione. Queste verità, però, penetrano davvero in fondo al cuore, oppure restano sulle labbra? Il messaggio divino di vittoria, di gioia e di pace della Pentecoste deve essere il fondamento incrollabile del modo con cui ogni cristiano pensa, sceglie e vive. Forza di Dio e debolezza umana. Non est abbreviata manus Domini. La mano di Dio non si è accorciata. Oggi Dio non è meno potente che in altri tempi, né il suo amore per gli uomini è oggi meno vero. La nostra fede ci insegna che tutta la creazione, il movimento della terra e degli astri, le azioni rette delle creature e ciò che esiste di positivo nel corso della storia, tutto insomma viene da Dio e a Dio è ordinato. L'azione dello Spirito Santo può passare inosservata ai nostri occhi, dato che Dio non ci mette al corrente dei suoi piani e dato anche che il peccato di noi uomini intorbida e offusca i doni divini. Ma la fede ci ricorda che Dio agisce incessantemente. È Lui che ci ha creati e ci mantiene nell'essere. È Lui che con la sua grazia conduce la creazione tutta verso la libertà della gloria dei figli di Dio. Giustamente la tradizione cristiana ha perciò riassunto in una sola idea l'atteggiamento che dobbiamo avere nei confronti dello Spirito Santo: docilità. Docilità significa essere sensibili a ciò che lo Spirito Divino suscita intorno a noi e in noi, sensibili ai carismi che distribuisce, ai movimenti e alle istituzioni che promuove, agli affetti e alle decisioni che fa nascere nel nostro cuore. Lo Spirito Santo realizza nel mondo le opere di Dio. Egli è, come dice l'inno liturgico, datore dei doni, luce dei cuori, ospite dell'anima, riposo nella fatica, conforto nel pianto. Senza il suo soccorso, nulla viene l'uomo che sia innocente e valido, perché è lui che purifica ciò che è contaminato, sana ciò che è malato, accende ciò che è gelido, riconduce sulla retta via chi si è smarrito e avvia tutti gli uomini verso il porto della salvezza e della gioia eterna. Ma questa nostra fede nello Spirito Santo deve essere piena e completa. Non basta una vaga credenza nella sua presenza nel mondo. È necessaria una riconoscente accettazione dei segni e delle realtà alle quali in modo particolare ha voluto legare la sua forza. Quando verrà lo Spirito di verità, ha annunciato Gesù, mi glorificherà perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Lo Spirito Santo è lo Spirito inviato da Cristo per operare in noi la santificazione che Egli ci ha meritato sulla terra. Pertanto non ci può essere fede nello Spirito Santo se non c'è fede in Cristo, nella dottrina di Cristo, nei sacramenti di Cristo, nella Chiesa di Cristo. Non è coerente con la fede cristiana e non crede veramente nello Spirito Santo chi non ama la Chiesa, chi non ha fiducia in essa, chi si compiace solo di denunciare i difetti e i limiti di coloro che la rappresentano, chi la giudica dall'esterno ed è incapace di sentirsi suo figlio. Pensate un momento a tutta la grandezza meravigliosa e sovrabbondante dell'opera del divino Paraclito, quando il sacerdote, celebrando sull'altare la Santa Messa, rinnova il sacrificio del Calvario. Ma noi cristiani portiamo i grandi tesori della grazia in vasi di argilla. Dio ha affidato i suoi doni alla fragile e debole libertà umana, e benché la sua forza certamente ci assista, la nostra concupiscenza, la nostra comodità e il nostro orgoglio spesso la respingono e ci inducono a incorrere nel peccato. Parecchie volte, da oltre 25 anni a questa parte, quando recito il credo e affermo la mia fede nella divinità della Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, aggiungo, malgrado tutto. E se qualcuno, quando parlo di questa mia abitudine, mi domanda a che cosa intendo alludere, rispondo, ai tuoi peccati e ai miei. Tutto questo è vero, ma non per questo siamo autorizzati a giudicare la Chiesa con criteri umani, senza fede teologale, fondandoci solamente sulle qualità più o meno esemplari di taluni ecclesiastici e di taluni cristiani. Chi fa così rimane alla superficie. La cosa più importante da scorgere nella Chiesa non è il modo con cui rispondono gli uomini, ma l'azione di Dio. La Chiesa è questo, Cristo presente in mezzo a noi. Dio che viene incontro all'umanità per salvarla, chiamandoci con la sua rivelazione, santificandoci con la sua grazia, sostenendoci con il suo costante aiuto nelle piccole e grandi battaglie della vita quotidiana. Possiamo anche arrivare a non avere fiducia negli uomini. Anzi, ciascuno di noi è tenuto a non fidarsi di se stesso e a concludere le sue giornate con un mea culpa, con un atto di contrizione profondo e sincero. Ma non abbiamo il diritto di non fidarci di Dio. E non aver fiducia nella Chiesa, nella sua origine divina, nell'efficacia salvifica della sua predicazione e dei suoi sacramenti, è come non aver fiducia in Dio stesso e non credere pienamente alla realtà della discesa dello Spirito Santo. Prima che Cristo fosse crocifisso, scrive San Giovanni Crisostomo, non vi era riconciliazione. E fin tanto che non c'era riconciliazione, non fu inviato lo Spirito Santo. La mancanza dello Spirito Santo era il segno dell'ira divina. Ora che lo vedi inviato con tanta pienezza, non dubitare della riconciliazione. E se domandano dov'è ora lo Spirito Santo, si poteva parlare della sua presenza quando avvenivano i miracoli, quando venivano risuscitati i morti e mondati i lebbrosi. Come facciamo a sapere ora che è davvero presente? Non vi preoccupate. Io vi dimostrerò che lo Spirito Santo è ancora adesso in mezzo a noi. Se non esistesse lo Spirito Santo, non potremmo dire Signore Gesù, poiché nessuno può invocare Gesù come Signore se non nello Spirito Santo. Se non esistesse lo Spirito Santo, non potremmo pregare con fiducia. Infatti, quando preghiamo, diciamo Padre nostro che sei nei cieli. Se non esistesse lo Spirito Santo, non potremmo chiamare Dio Padre nostro. Come lo sappiamo? Perché l'Apostolo ci dice, e siccome siamo figli, Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba, Padre. Perciò quando invochi Dio Padre, ricordati che è stato lo spirito che muovendo la tua anima ti ha dato questa preghiera. Se non esistesse lo Spirito Santo, non ci sarebbe nella Chiesa nessuna parola di sapienza o di scienza, perché è scritto la tua parola di sapienza è data dallo Spirito. Se lo Spirito Santo non fosse presente, la Chiesa non esisterebbe. Ma dato che la Chiesa esiste, è cosa certa che lo Spirito Santo non viene meno. Al di sopra delle manchevolezze e dei limiti umani, ripeto, la Chiesa è questo, il segno e in un certo modo, non nel senso stretto con cui è stata definita dogmaticamente l'essenza dei sette sacramenti della Nuova Alleanza, il sacramento universale della presenza di Dio nel mondo. Essere cristiani significa essere stati rigenerati da Dio e inviati agli uomini per annunciare loro la salvezza. Se avessimo una fede energica e vissuta e facessimo conoscere Cristo con franchezza, vedremmo realizzarsi davanti ai nostri occhi gli stessi miracoli che si realizzavano ai tempi degli apostoli. E infatti anche adesso viene ridata la vista ai ciechi, a persone che avevano perso la capacità di guardare il cielo e di contemplare le meraviglie di Dio. Si dà la libertà agli zoppi e agli storpi che si trovavano paralizzati dalle proprie passioni, con un cuore che non sapeva più amare. Si ridà l'udito ai sordi che non volevano più saperne di Dio. Si riesce a far parlare i muti che avevano la lingua impedita perché non volevano confessare le proprie sconfitte. E si risuscitano i morti, coloro nei quali il peccato aveva spento la vita. Verifichiamo ancora una volta che la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. E come i primi fedeli cristiani, ci rallegriamo scorgendo la forza dello Spirito Santo e il suo intervento nell'intelligenza e nella volontà delle sue creature. Far conoscere Cristo. Vedo tutti gli avvenimenti della vita, quelli di ogni esistenza individuale e in un certo modo quelli delle grandi svolte della storia, come altrettanti appelli che Dio rivolge agli uomini perché affrontino la verità e anche come occasioni offerte a noi cristiani per annunciare con le nostre opere e le nostre parole, aiutati dalla grazia, lo spirito al quale apparteniamo. Ogni generazione di cristiani deve redimere e santificare il suo tempo e per riuscirci deve comprendere e condividere le ansie degli altri uomini a loro uguali per far loro conoscere, con il dono delle lingue, come devono corrispondere all'azione dello Spirito Santo, all'effusione permanente delle ricchezze del cuore divino. Tocca a noi cristiani del nostro tempo annunciare oggi, a questo mondo al quale apparteniamo e nel quale viviamo, il messaggio antico e nuovo del Vangelo. Non è vero che tutto il mondo attuale, globalmente considerato, sia chiuso o indifferente a ciò che insegna la fede cristiana circa il destino e l'essere dell'uomo. Non è vero che gli uomini di oggi si occupino soltanto delle cose della terra e non si curino più di guardare il cielo. Certo, non mancano ideologie chiuse e persone che le appoggiano ostinatamente, ma nella nostra epoca ci sono molte cose, alti ideali e atteggiamenti meschini, eroismo e codardia, progetti ambiziosi e delusioni. C'è gente che sogna un mondo nuovo, più giusto e più umano, e gente che invece, magari delusa dal crollo degli ideali in cui credeva, si rifugia nell'atteggiamento egoista di chi non cerca altro che la propria tranquillità o permane immerso nell'errore. A tutti costoro, uomini e donne, dovunque si trovino, nei momenti di entusiasmo e nei momenti di crisi o di fallimento, noi dobbiamo far giungere l'annuncio solenne e categorico che San Pietro fece nei giorni che seguirono la Pentecoste. Gesù è la pietra d'angolo, il Redentore, il tutto della nostra vita, perché al di fuori di Lui non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale sia stabilito che possiamo essere salvati. Direi che fra i doni dello Spirito Santo ce n'è uno di cui tutti i cristiani hanno particolare bisogno, il dono di sapienza, che ci fa conoscere e gustare il Dio, rendendoci capaci di valutare rettamente le situazioni e le cose di questa vita. Se fossimo coerenti con la nostra fede, guardandoci attorno e contemplando lo spettacolo della storia e del mondo, ci sentiremmo nel cuore gli stessi sentimenti che animavano il cuore di Gesù, il quale, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Certamente il cristiano sa anche riconoscere quanto c'è di buono nell'uomo, apprezza le vere gioie della vita e partecipa alle lotte e agli ideali terreni. Anzi, sente tutte queste cose nell'intimo dell'anima, le condivide e le vive con impegno tutto speciale, proprio perché egli conosce come nessun altro le profondità dello spirito umano. La fede cristiana non rende quindi pusillanimi né frena gli aneliti migliori dell'anima, ma anzi li dilata e li potenzia, rivelandone il senso autentico. Non siamo infatti destinati a una felicità qualunque, perché siamo stati chiamati a penetrare nell'intimità divina, a conoscere e ad amare Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, e nella Trinità e unità di Dio, tutti gli angeli e tutti gli uomini. Questo è il grande ardimento della fede cristiana, proclamare il valore e la dignità della natura umana e affermare che mediante la grazia che ci eleva all'ordine soprannaturale siamo stati creati per conseguire la dignità di figli di Dio. Tanta audacia sarebbe davvero impossibile se non si basasse sul decreto di salvezza di Dio Padre e non fosse stata confermata dal sangue di Cristo e riaffermata e resa possibile dall'azione incessante dello Spirito Santo. Dobbiamo vivere di fede, crescere nella fede, tanto che si possa dire di ognuno di noi, di ogni cristiano, quello che scriveva molti secoli or sono uno dei grandi scrittori della Chiesa d'Oriente. Allo stesso modo in cui i corpi trasparenti e nitidi, quando ricevono i raggi di luce, diventano splendenti e irradiano luminosità, così le anime che sono guidate e illuminate dallo Spirito Santo diventano anch'esse spirituali e recano agli altri la luce della grazia. Dallo Spirito Santo proviene la conoscenza delle cose future, l'intelligenza dei misteri, la comprensione delle verità occulte, la distribuzione dei doni, la cittadinanza celeste, la conversazione con gli angeli. Da lui viene la gioia imperitura, la perseveranza in Dio, la somiglianza con Dio e la cosa più sublime che può essere concepita, cioè immedesimarsi con Dio. La coscienza della grandezza della dignità umana, particolarmente eminente e ineffabile per il fatto di essere stati fatti per la grazia figli di Dio, forma, assieme all'umiltà, una cosa sola nel cristiano, dato che non sono le nostre forze a salvarci e a darci la vita, bensì il favore divino. Questa è una verità da non dimenticare mai, perché altrimenti la divinizzazione scadrebbe in presunzione vana, in superbia, e prima o poi in un completo crollo spirituale causato dall'esperienza della propria debolezza e della propria miseria. Sant'Agostino si chiedeva, «Potrò mai osare dire che sono santo? Se dicessi di essere santo in quanto santificatore e in quanto non bisognoso di nessuno che mi santificasse, sarei superbo e bugiardo. Ma se per santo intendo dire santificato, d'accordo con quanto si legge nel Levitico, siate santi perché io, Iddio, sono santo», allora anche il corpo di Cristo, fino all'ultimo uomo che si trova ai confini della terra, potrà dire audaciamente, unito al suo capo e subordinato a lui, «Io sono santo». Amate la terza persona della Trinità Beatissima. Ascoltate nell'intimità del vostro essere le emozioni divine, incoraggiamenti, rimproveri. Camminate sulla terra guidati dalla luce che ha inondato la vostra anima. E il Dio della speranza ci colmerà di ogni sorta di pace, in modo che questa speranza cresca in noi sempre di più, in virtù dello Spirito Santo. Intimità con lo Spirito Santo. Vivere secondo lo Spirito Santo è vivere di fede, di speranza, di carità. Permettere che Dio prenda possesso di noi e cambi il nostro cuore alla radice, portandolo alla sua misura. Una vita cristiana matura, profonda ed energica, non è cosa che si possa improvvisare, ma è il risultato dello sviluppo della grazia di Dio in noi. Negli Atti degli Apostoli, la situazione della comunità cristiana primitiva viene descritta con una frase breve ma carica di significato. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Così vissero i primi cristiani e così dobbiamo vivere tutti noi. La meditazione della dottrina della fede fino ad assimilarla pienamente, l'incontro con Cristo nell'Eucaristia, il dialogo personale, la preghiera senza anonimato, a tu per tu con Dio, devono arrivare ad essere come la sostanza della nostra condotta. Se dovessero mancare, ci potrebbero pur essere la riflessione erudita, l'attività più o meno intensa, le devozioni e le pratiche di pietà, ma non ci sarebbe autentica esistenza cristiana, perché mancherebbe la compenetrazione con Cristo, la partecipazione reale e vissuta all'opera della salvezza. È una dottrina che si applica a tutti i cristiani, perché tutti sono ugualmente chiamati alla santità. Non ci sono cristiani di seconda classe, tenuti a praticare soltanto una versione ridotta del Vangelo. Tutti abbiamo ricevuto un medesimo battesimo, eppur nella grande diversità di carismi e di situazioni umane, uno solo è lo Spirito che elargisce i doni divini, una sola è la fede, una sola la speranza, una sola la carità. Possiamo quindi considerare come rivolta a noi la domanda dell'Apostolo: non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? E possiamo prenderla come un invito a un rapporto più personale e diretto con Dio. Purtroppo il Paraclito, per taluni cristiani, è il grande sconosciuto. È un nome che si pronuncia, ma non è un qualcuno, una delle tre persone dell'unico Dio con cui parlare e di cui vivere. E invece bisogna rivolgersi a Lui con familiarità e con fiducia, come la Chiesa ci insegna mediante la liturgia. Allora conosceremo meglio nostro Signore e allo stesso tempo ci renderemo conto molto di più che chiamarsi cristiani è veramente un dono immenso. Scopriremo tutta la grandezza e tutta la verità di quella divinizzazione, di quella partecipazione alla vita divina di cui prima parlavo. Infatti, lo Spirito Santo non è un artista che raffiguri in noi la sostanza di Dio, come se egli le fosse estraneo. Non è così che ci porta alla somiglianza con Dio. Ma egli stesso, che è Dio e da Dio procede, si imprime nei cuori che lo ricevono come il sigillo sulla cera. E in questo modo, mediante la comunicazione di sé e la somiglianza, ristabilisce la natura nella bellezza del modello divino e restituisce all'uomo l'immagine di Dio. Se ora vogliamo determinare, sia pure in linee generali, quale sia lo stile di vita che porti ad avere un rapporto di amicizia e di familiarità con lo Spirito Santo e assieme a Lui con il Padre e il Figlio, dobbiamo considerare tre realtà fondamentali: la docilità, la vita di preghiera, l'unione alla croce. In primo luogo la docilità, perché è lo Spirito Santo che con le sue ispirazioni dà tono soprannaturale ai nostri pensieri, ai nostri desideri e alle nostre opere. È Lui che ci spinge ad aderire alla dottrina di Cristo e ad assimilarla in tutta la sua profondità. È Lui che ci illumina per farci prendere coscienza della nostra vocazione personale e ci sostiene per farci realizzare tutto ciò che Dio si attende da noi. Se siamo docili allo Spirito Santo, l'immagine di Cristo verrà a formarsi sempre più nitidamente in noi e in questo modo saremo sempre più vicini a Dio Padre. Sono infatti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, i veri figli di Dio. Se ci lasciamo guidare da questo principio di vita presente in noi, la nostra vitalità spirituale si svilupperà sempre più e noi ci abbandoneremo nelle mani di Dio nostro Padre con la stessa spontaneità e con la stessa fiducia con cui il bambino si getta nelle braccia del Padre. Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, ha detto il Signore. Questo antico e sempre attuale itinerario interiore di infanzia non è fragile sentimentalismo né carenza di maturità umana, bensì la vera maturità soprannaturale che ci porta a scoprire sempre meglio le meraviglie dell'amore divino, a riconoscere la nostra piccolezza e a identificare del tutto la nostra volontà con la volontà di Dio. Poi, la vita di preghiera, perché la dedizione, l'obbedienza, la mansuetudine del cristiano nascono dall'amore e all'amore tendono. E l'amore porta al rapporto, al colloquio, all'amicizia. La vita cristiana richiede un dialogo costante con Dio uno e trino e proprio a questa intimità ci spinge lo Spirito Santo. Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così i segreti di Dio nessuno li ha potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Se avremo un rapporto continuo con lo Spirito Santo, diventeremo spirituali, ci sentiremo fratelli di Cristo e figli di Dio e non esiteremo a invocare Dio come vero Padre di ciascuno di noi. Bisogna che ci abituiamo a frequentare lo Spirito Santo che ci deve santificare, ad avere fiducia in Lui, a invocare il Suo aiuto, a sentirlo vicino a noi. Così il nostro povero cuore si dilaterà sempre di più e avremo un anelito sempre più ardente d'amore verso Dio, e per Lui d'amore per tutte le creature. e si riprodurrà nella nostra vita la visione finale dell'Apocalisse. Lo Spirito e la Sposa, lo Spirito Santo e la Chiesa, e con essi ogni cristiano, si rivolgono a Gesù, a Cristo, e gli chiedono di venire, di rimanere con noi per sempre. E infine, l'unione con la croce. Perché nella vita di Cristo il Calvario ha preceduto la risurrezione e la Pentecoste, e questo medesimo processo deve riprodursi nella vita di ogni cristiano. Noi siamo coeredi di Cristo, dice San Paolo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Lo Spirito Santo è il frutto della croce, della dedizione totale a Dio, della ricerca esclusiva della sua gloria e della totale rinuncia a noi stessi. Quando l'uomo, fedele alla grazia, si decide a collocare la croce nel centro della sua anima, rinnegando se stesso per amore di Dio, distaccandosi veramente dall'egoismo e da ogni falsa sicurezza umana, quando cioè l'uomo vive veramente di fede, allora e solo allora riceve con pienezza il grande fuoco, la grande luce, la grande consolazione dello Spirito Santo. Ed è allora che vengono date all'anima anche la pace e la libertà che Cristo ci ha conquistato e che otteniamo mediante la grazia dello Spirito Santo. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. E dove c'è lo Spirito del Signore, c'è libertà. In mezzo ai limiti, che sono inscindibilmente connessi con la nostra situazione presente, perché il peccato abita ancora in noi in qualche modo, il cristiano avverte con nuova luce tutta la ricchezza della sua filiazione divina, quando si riconosce pienamente libero, perché lavora nelle cose del Padre suo, quando la sua gioia diventa costante, perché nulla riesce a far crollare la sua speranza. Oltretutto, è proprio allora che egli può ammirare ogni bellezza e ogni meraviglia della terra, può apprezzare ogni ricchezza e ogni bontà, e può amare con tutta l'integrità e tutta la purezza per le quali è stato fatto il cuore dell'uomo. Ed è allora che il dolore per il peccato non degenera in atteggiamenti di amarezza, di disperazione o di alterigia, perché la contrizione e la consapevolezza della miseria umana lo conducono a identificarsi di nuovo con l'impegno di redenzione di Cristo e a sentire più intimamente la solidarietà con tutti gli uomini. È allora, infine, che il cristiano avverte in sé con certezza la forza dello Spirito Santo, tanto che le sue cadute non lo prostrano più. Sono piuttosto un invito a ricominciare per continuare ad essere in tutte le strade della terra un fedele testimone di Cristo, nonostante tutte le miserie personali, che poi in questi casi sono quasi sempre delle mancanze lievi che appena offuscano l'anima, e anche se fossero gravi, ricorrendo con compunzione al sacramento della penitenza, il cristiano ritorna alla pace di Dio e ridiventa un buon testimone delle sue misericordie. È questa, in una rapida sintesi che a malapena riesce a tradurre nelle povere parole umane la ricchezza della fede, la vita del cristiano che si lascia guidare dallo Spirito Santo. E quindi, per concludere, non trovo di meglio che far mia la supplica di uno degli inni liturgici della festa di Pentecoste, che è come l'eco della ininterrotta preghiera di tutta la Chiesa. Vieni, Spirito Creatore, visita la mente dei tuoi, ricolma di grazia celeste i cuori che tu hai creato. Fa che per tua grazia conosciamo il Padre. Dacci a conoscere anche il Figlio e facci credere sempre in te, Spirito che procedi da entrambi.